che sei come me. So che avrai i tuoi guai, spesso parlarne aiuta, dai. Ma anche vederti non è facile. Sarebbe forse ingiusto, dai.